L'inquietudine del futuro non era mai entrata nello spirito di Tom. Suo padre aveva sempre montato un buon cavallo, abitato una buona casa e serbato l'aria gaia e fiduciosa dell'uomo che possiede una fortuna sufficiente per poterci riposare su. Tom non si era mai sognato che suo padre potesse fallire. Era questa una specie di disgrazia della quale sempre aveva inteso parlare come di un profondo disonore. E il disonore era un'idea che egli non poteva associare con alcuno dei suoi parenti, meno che mai con suo padre. Un orgoglioso senso della rispettabilità familiare faceva parte integrante dell'atmosfera in cui Tom era nato ed era stato allevato. Sapeva che a St. Oaks c'era della gente che faceva bella figura, senza il denaro sufficiente per pagarsela, e dalla sua parentela aveva sempre sentito parlare di simile gente con disprezzo e con biasimo. Nutriva la ferma fede, divenuta in lui abito di vita e non bisognosa di prove certe su cui fondarsi, che suo padre, volendo, poteva spendere delle grandi quantità di denaro e, dopo che la sua educazione presso Mr. Stelling gli aveva aperto gli orizzonti di una vita più dispendiosa, spesso aveva pensato che da grande poteva far bella figura nel mondo col suo cavallo, i suoi cani e la sua sella e con gli altri ornamenti di un giovanotto elegante e mostrarsi pari a qualunque altro dei suoi coetanei di St. Oaks, i quali potevano credersi più di lui in società solo perché i loro padri erano dei professionisti o avevano dei grandi mulini da olio. I pronostici e tutto il tentennar di capo delle zie e degli zii non avevano mai prodotto su di lui il minimo effetto, eccetto che di fargli pensare che le zie e zii erano una spiacevole compagnia. Per quanto era lunga la sua memoria, sempre li aveva sentiti esprimere il loro biasimo allo stesso modo. Suo padre ne sapeva più di loro. La peluria era spuntata sul labbro di Tom, ma i suoi pensieri e le sue speranze erano rimasti semplicemente la riproduzione, in forme mutate, dei sogni infantili in cui viveva 3 anni prima. Ora egli veniva destato da una scossa violenta. Maggie era spaventata del pallido, tremante silenzio di Tom. C'era ancora qualcosa da dirgli, qualcosa di peggio. Alla fine lo circondò delle proprie braccia e gli disse con un mezzo singhiozzo: «Oh, Tom, caro, caro Tom, non ti angustiare troppo, tenta di sopportare con forza tutto ciò». Tom porse la guancia a ricevere passivamente i baci consolatori e negli occhi gli si raccolse qualche stilla che subito asciugò con la mano. Questo movimento parve risvegliarlo, perché si scuoté e disse: «Verrò a casa con te, Maggie. Non te l'ha detto il babbo che devo tornare?» «No, Tom, il babbo non lo ha chiesto», disse Maggie, riuscendo a signoreggiare la propria agitazione per l'ansia che le davano i sentimenti di lui. «Che avrebbe fatto se la gli raccontava tutto?» «Ma la mamma vuole che tu venga. Povera mamma, piange sempre. Oh, Tom, è terribile a casa». Le labbra di Maggie divennero più bianche ed ella si mise a tremare, quasi come aveva fatto Tom. I due poveri esseri si avviticchiarono più stretti l'uno all'altro, ambedue tremanti, l'uno di indefinito terrore, l'altra all'immagine di una tremenda certezza. Quando Maggie parlò, fu appena un sussurro. «E il povero babbo...» Maggie non poté finire la frase, ma l'incertezza era insopportabile per Tom. Una vaga idea della prigione come conseguenza dei debiti fu la prima forma che presero le sue paure. «Dov'è il babbo?» domandò con impazienza. «Dimmelo, Maggie!» «È a casa», disse Maggie, trovando più facile di rispondere a questa domanda. «Ma», soggiunse dopo una pausa, «non è più lui. È caduto da cavallo e dopo da allora non ha più riconosciuto nessuno tranne che me. Pare che abbia perduto la ragione. Oh, papà, papà!» Con queste ultime parole, i singhiozzi di Maggie proruppero con tanto maggior violenza quanto più ella aveva lottato prima contro di essi. Tom sentì quella stretta al cuore che impedisce le lacrime. Non aveva delle loro disgrazie una visione così netta come quella di Maggie che vi aveva assistito in casa. Sentiva soltanto il peso schiacciante di quel che gli pareva un inconsolabile infortunio. Stringeva tra le proprie braccia quasi convulsamente Maggie che singhiozzava, ma il suo volto rimaneva fisso e senza lacrime, gli occhi vuoti, come se una nera cortina di nubi fosse caduta d'improvviso sul suo cammino. Ma subito Maggie riuscì bruscamente a dominarsi. Un solo pensiero aveva agito su di lei come una diana spaventosa. Bisogna andare, Tom, non possiamo restare qui. Il babbo sentirà la mia mancanza. Per le 10 dobbiamo essere alla barriera a incontrare la diligenza, disse con improvvisa decisione, asciugandosi gli occhi e alzandosi per prendere il berretto. Tom sentì subito il medesimo impulso e si levò lì pure. Aspetta un minuto, Maggie, disse. Devo parlare a Mr. Stelling e poi andremo. Pensava che sarebbe dovuto andare nello studio dove si trovavano i compagni, ma prima di giungervi incontrò Mr. Stelling, il quale aveva saputo dalla moglie che Maggie appariva turbata quando aveva chiesto del fratello, ed ora, parendogli che fratello e sorella fossero stati soli abbastanza a lungo, veniva ad informarsi e ad offrire la propria solidarietà. Con vostro permesso, signore, devo tornare a casa, disse Tom bruscamente quando incontrò Mr. Stelling nel corridoio. Devo tornarvi subito con mia sorella. Il babbo ha perduto la causa, ha perduto tutti i suoi averi ed è molto ammalato. Mr. Stelling prese la cosa da uomo di buon cuore, previde una probabile perdita di denaro per sé, ma questo non ebbe un peso apprezzabile sui suoi sentimenti, mentre guardava con grave compassione il fratello e la sorella, per i quali giovinezza e dolore erano cominciati in un punto. Quando seppe come Maggie era venuta e quanta premura avesse di tornare a casa, sollecitò la loro partenza, limitandosi a sussurrare qualche cosa a Mrs. Stelling, che l'aveva seguito e che lasciò immediatamente la camera. Tom e Maggie erano in piedi sulla soglia della porta, pronti ad andarsene, quando Mrs. Stelling giunse con una piccola sporta che appese al braccio di Maggie, dicendo: «Ricordatevi di mangiare qualche cosa per via, cara». Il cuore di Maggie si sentì attratto verso quella donna che ella non aveva mai amata e l'abbracciò in silenzio. Era il primo indizio, nella povera figliola, di quel nuovo senso che, come il dono dell'afflizione, quella sensibilità alle più semplici dimostrazioni umane che le innalza a vincolo di affettuosa fratellanza. Così come per gli uomini smarriti tra i ghiacci, la sola presenza di un compagno di navigazione ravviva le profonde sorgenti dell'affetto. Mr. Stelling mise la sua mano sulla spalla di Tom e disse: «Dio vi benedica, figliolo mio, fatemi sapere vostre notizie». Poi strinse la mano di Maggie, ma voci di addio non si udirono. Tom aveva così spesso pensato alla felicità del giorno in cui avrebbe lasciato per sempre il collegio, ma ora i suoi anni di collegio gli parevano una vacanza che fosse giunta al termine. Le smilze figure dei due giovani divennero presto indistinte sulla strada lontana e si perdettero dietro lo sporger delle siepi. Erano partiti insieme per la nuova vita di dolore e mai più avrebbero veduto la luce del sole senza un ricordo di pena che lo offuscasse. Erano entrati nell'aspro deserto e le porte d'oro della loro infanzia erano per sempre chiuse dietro le loro spalle. Libro terzo. La catastrofe. 1. Ciò che era accaduto a casa. Appena Mr. Tulliver apprese che la sentenza della causa gli era sfavorevole e che Pivart e Wakem avevano vinto, diede a tutti coloro che ebbero campo di osservarlo in quel momento l'impressione che per essere uomo così fiducioso e di così caldo temperamento sopportava il colpo notevolmente bene. Ed egli stesso ebbe questa impressione. A Wakem e a tutti quelli che lo consideravano rovinato avrebbe dimostrato che prendevano un grosso abbaglio. Non poteva rifiutarsi di vedere che le spese di quella lunga causa gli avrebbero portato via più di quanto possedeva, ma si sentiva ricco di risorse con cui avrebbe stornato le conseguenze meno sopportabili ed evitato di apparire un vinto della vita. Tutta l'ostinazione e l'alterigia della sua indole, deviate dal loro vecchio corso, trovarono uno sbocco nella immediata formazione di progetti con cui avrebbe superato le difficoltà, per rimanere, ad onta di tutto, il Mr. Tulliver del mulino di Dorlcote. C'era un tal piano di progetti nella sua testa che non faceva meraviglia egli avesse il viso in fiamme quando uscì dal colloquio col suo procuratore, Mr. Gore, e balzò sul cavallo da Lindum per tornare a casa. L'ipoteca sulle terre, L'aveva Furley, una persona ragionevole che avrebbe saputo capire i propri interessi. Mr. Tulliver ne era convinto, e non solo sarebbe stato lieto di riscattare tutta la proprietà, compresi il mulino e la casa, ma avrebbe accettato Mr. Tulliver come fittavolo, anticipato del denaro, garantito con forti interessi sui profitti dell'affare, che Mr. Tulliver gli avrebbe ceduto, prelevando solo lo stretto necessario per mantenere sé e la propria famiglia. Chi avrebbe disdegnato un investimento così proficuo? Non certo Furley, perché Mr. Tulliver aveva deciso che Furley doveva accettare i suoi progetti con la più viva premura. C'è della gente a cui la perdita di una causa non ha ancora montato pericolosamente la testa, e nei propri interessi e desideri è pronta a vedere un sufficiente motivo per le azioni altrui. Non c'era dubbio, nella mente del mugnaio, che Furley avrebbe fatto esattamente ciò che era desiderabile. E se lo faceva, e via, le cose non erano poi tanto peggiorate. Mr. Tulliver e la sua famiglia dovevano vivere con più strettezza e modestia, ma questo sarebbe durato solo fino a quando i profitti degli affari avrebbero pagato l'anticipo di Furley, il che poteva avvenire entro un termine di là dal quale Mr. Tulliver avesse ancora un bel numero d'anni davanti a sé. Evidentemente le spese della causa potevano essere liquidate senza che egli fosse costretto ad abbandonare la sua vecchia casa e a fare la figura dell'uomo rovinato. Certo che era un brutto momento per i suoi affari. C'era quella cauzione a favore del povero Riley, che era morto improvvisamente nello scorso aprile, lasciando il suo amico oberato da un debito di 250 sterline, fatto che contribuiva a rendere la lettura del libro-mastro di Mr. Tulliver meno gradevole di quanto si sarebbe potuto desiderare sotto Natale. Bene, egli non era mai stato uno di quei sordidi avari che si rifiutano di dare una mano a un compagno di viaggio in questo mondo sconcertante. L'affare veramente fastidioso era che qualche mese prima il creditore che gli aveva imprestato le 500 sterline da restituire a Mrs. Glegg si era mostrato inquieto sulle sorti del proprio denaro, sobillato da Wakem, naturalmente, e Mr. Tulliver, ancora fiducioso nell'esito della causa e trovando straordinariamente scomodo di raggranellare la detta somma avanti che si producesse quell'esito auspicato, aveva imprudentemente acceduto alla richiesta di rilasciare una tratta garantita sul proprio mobilio di casa e su alcuni altri effetti. Faceva tutt'uno, egli si era detto. Ben presto avrebbe rimborsato il denaro e non c'era nessun male a rilasciare quella garanzia piuttosto che un'altra. Ma ora le conseguenze di quella tratta gli si presentavano sotto una nuova luce. Si ricordò che era prossima ormai la scadenza in cui, se il denaro non veniva reso, gli avrebbero fatto gli atti. 2 mesi prima avrebbe fieramente dichiarato che mai sarebbe voluto essere debitore dei parenti della moglie, ma ora, con altrettanta fierezza, si diceva che non c'era nulla di men che giusto e naturale se Bessie andava dai Pallet a spiegare la situazione. Essi non avrebbero sopportato che il mobilio di Bessie venisse messo all'asta, e questo mobilio poteva servire di garanzia a Pallet ove anticipasse il denaro. Dopotutto, non si sarebbe trattato né di un dono né di una liberalità. Per sé, Mr. Tulliver non avrebbe mai chiesto nulla ad una persona così gretta, ma beh sì, se voleva, poteva farlo. Sono proprio gli uomini più orgogliosi e i più ostinati quelli che più vanno soggetti a spostare la propria posizione e a contraddirsi in questa maniera improvvisa. Qualunque cosa riesce loro più facile che riconoscere il semplice fatto d'essere stati completamente battuti e di dover ricominciare la vita da capo. E Mr. Tulliver, voi lo vedete, pur non essendo nulla più che un ottimo mugnaio e produttore di malto, era fiero e ostinato come i più grandi personaggi, presso i quali un simile carattere può dar luogo a quelle grandi tragedie di vasta risonanza che passano sulle scene in manto regio e rendono sublime il più scialbo dei cronisti. L'orgoglio e l'ostinazione dei mugnai e d'altre persone senza importanza, che voi incrociate sbadatamente ogni giorno per via, hanno anch'essi la loro tragedia, ma di quella specie illacrimata e sconosciuta, che si trasmette di generazione in generazione senza lasciare memoria di sé. Simile tragedia, forse, si svolge nei conflitti delle giovani anime affamate di gioia, oppresse da una sorte fattasi di improvviso insopportabile, dalla tristezza di una casa dove i mattini non recano più promesse e dove la desolazione senza speranza dei genitori stanchi e delusi pesa sui figli come un'atmosfera umida e greve. entro la quale tutte le funzioni della vita si soffocano. Tragedie simili si svolgono nella morte lenta e subitanea che tien dietro ad una passione spezzata, ancorché possano essere morti seguite da un semplice funerale di parrocchia. Vi sono certi animali per cui l'ostinarsi in una situazione è una legge di vita. Essi non possono più rifiorire dopo che abbiano subito un primo colpo. E ci sono esseri umani per cui il predominio è legge di vita. Costoro riescono a sostenere le umiliazioni solo finché possano rifiutarsi di credervi, solo finché paia loro di tenere ancora il predominio. Nella sua immaginazione, Mr. Tulliver si sentiva ancora dominatore mentre si avvicinava a St. Oaks, che doveva attraversare per giungere a casa. Ma cosa fu che al vedere la diligenza di Laceham che entrava nella città, gli suggerì di seguirla fino alla posta e di far scrivere dal commesso una lettera con cui chiedeva a Maggie di tornare senz'altro a casa il giorno dopo. La mano di Mr. Tulliver tremava troppo in questo stato di agitazione perché gli potesse scrivere personalmente ed egli voleva che la lettera fosse consegnata al postiglione da recapitarsi in mattinata al collegio di Miss Firnis. Sentiva un desiderio ardente, a lui stesso inspiegabile, di avere Maggie accanto a sé, senza indugio. Ella doveva tornare a casa con la diligenza dell'indomani. Quando fu a casa, non volle, con Mrs. Tulliver, ammettere difficoltà di sorta, anzi la rimproverò per l'accesso di rimpianti a cui ella si diede nell'udire che la causa era perduta, sostenendo collericamente che non c'era nulla da rimpiangere. Quella sera non le disse nulla della tratta e del ricorso a Mrs. Pallet perché le aveva sempre lasciato ignorare la natura di quella transizione, spiegandole la necessità di fare l'inventario dei loro beni come una formalità connessa col proprio testamento. L'avere una moglie di notevole inferiorità intellettuale è, come altri grandi privilegi, accompagnato da alcuni inconvenienti, fra cui la necessità di ricorrere ogni tanto a piccole menzogne. Nel pomeriggio del giorno seguente, Mr. Tulliver era di nuovo a cavallo, diretto all'ufficio di Mr. Gore in St. Oaks. Gore doveva aver veduto Furley nella mattina e tastato il terreno con lui in merito agli affari di Mr. Tulliver, ma non era ancora a metà strada quando incontrò il giovane d'ufficio di Mr. Gore, che stava portandogli una lettera. Una improvvisa chiamata d'affari impediva a Mr. Gore di attendere Mr. Tulliver nell'ufficio, secondo l'appuntamento fissato. Ma si sarebbe trovato in ufficio alle 11 del mattino seguente, frattanto gli dava per lettera alcune importanti informazioni. «Oh!» disse Mr. Tulliver prendendo la lettera ma senza aprirla. «Allora dite a Gore che lo vedrò domani mattina alle 11», e voltò il suo cavallo. Colpito dallo sguardo brillante ed eccitato di Mr. Tulliver, il giovane lo seguì con gli occhi per alcuni momenti e poi se ne andò. La lettura di una lettera non era faccenda di un minuto per Mr. Tulliver, il quale penetrava molto lentamente nel senso di un affare espresso con caratteri scritti o anche stampati, sicché aveva ficcato la lettera in tasca, pensando di aprirla quando sarebbe stato sulla poltrona di casa sua. Ma ben presto gli venne in mente che nella lettera poteva esserci qualcosa di cui Mrs. Tulliver non doveva essere informata, e se era così, sarebbe stato meglio che ella non la vedesse neppure. Non si trattava che di un breve biglietto. In sostanza, Mr. Gore aveva assodato, in base a testimonianza segreta ma sicura, aver avuto recentemente il Furley delle difficoltà finanziarie ed aver ceduto le proprie garanzie, tra cui l'ipoteca sulla proprietà di Mr. Tulliver, che aveva trasferita a Wickham. Mezz'ora dopo, il carrettiere di Mr. Tulliver trovò il padrone giacente fuori di sensi, sul ciglio della strada, con una lettera aperta accanto a sé e il cavallo grigio che annusava con inquietudine. Quando Maggie giunse a casa quella sera, obbedendo alla chiamata del padre, egli era oramai tornato in sé. Circa un'ora prima aveva ripreso conoscenza e, dopo vaghi, inespressivi sguardi all'ingiro, mormorato qualcosa relativamente a una lettera su cui ora insisteva con impazienza. Dietro richiesta di Mr. Turnbull, il medico, fu portata la lettera di Gore, che venne posata sul letto, e allora l'impazienza parve calmarsi. Il pover'uomo tenne per qualche tempo gli occhi fissi sulla lettera, come se tentasse con l'aiuto di questa di raccapezzare i propri pensieri, ma ecco che una nuova ondata di memorie parve sopraggiungere a spazzar via tutto il resto. Dalla lettera egli volse gli occhi verso la porta e dopo uno sguardo inquieto, come se si sforzasse di vedere qualche cosa che i suoi occhi annebbiati non riuscivano a discernere, disse: «La piccina!» Ripeté queste parole di quando in quando con impazienza e pareva completamente inconscio di tutto ciò che non fosse quell'unico desiderio importuno, né dava segno di riconoscere la moglie o alcun'altra persona. La povera Mrs. Tulliver, con le sue deboli facoltà quasi paralizzate da questo improvviso accumularsi di guai, andava e veniva dalla camera al cancello per vedere se giungeva la diligenza di Latham, quantunque non fosse ancor l'ora. Ma finalmente essa giunse e depose la povera fanciulla inquieta, non più la piccina ormai, fuorché nella tenera memoria di suo padre. «Oh, mamma, che cosa succede?» disse Maggie con le labbra sbiancate mentre la madre le si avvicinava piangendo. Non supponeva che il babbo stesse male, perché la lettera giuntale dalla posta di St. Ogg's era stata dettata da lui. Ma ecco che Mr. Turnbull le venne incontro, un medico e l'angelo benefico delle famiglie afflitte, e Maggie, con uno sguardo turbato e interrogativo, si slanciò verso il caro vecchio amico che le era presente fin dal tempo delle prime memorie infantili. «Non vi allarmate così, cara», disse egli prendendole la mano. «Vostro padre è stato colpito da un attacco improvviso e non ha ancora del tutto recuperato la memoria, ma ha chiesto di voi. Egli farà bene di vedervi. State più calma che potete, eh? Mettetevi in libertà e venite di sopra con me». Maggie obbedì, con quel terribile batticuore che fa parer la vita ridotta semplicemente a una dolorosa pulsazione. Perfino la tranquillità con cui parlava Mr. Turnbull aveva spaventato la sua suscettibile immaginazione. Gli occhi del babbo erano ancora volti con inquietudine verso la porta quando ella, entrando, incontrò quello strano, spasimoso, disperato sguardo che invano l'aveva cercata. Con subitaneo scatto egli si alzò sul letto, ella si slanciò verso di lui e lo strinse coprendolo di baci agonizzanti. Povera bimba! Troppo presto le toccava di conoscere uno di quei supremi momenti della vita in cui tutto quello che abbiamo sperato e amato, tutto quel che abbiamo temuto e sofferto, decade ai nostri occhi come cosa insignificante e si perde, simile a memoria banale, in paragone col semplice, primitivo amore per gli esseri che più ci sono stati vicini e adesso attraversano la loro ora di disperazione e di cordoglio. Ma quel lampo di conoscenza era stata una fatica troppo grave per le forze rotte e indebolite del babbo. Egli ricadde in uno stato di insensibilità e di paralisi che si protrasse per parecchie ore, interrotto soltanto da un vacillante ritorno della coscienza, durante il quale gli prese passivamente tutto ciò che gli fu dato e parve provare una specie di infantile soddisfazione per la vicinanza di Maggie, una soddisfazione come quella del poppante quando viene riattaccato al seno della nutrice. Mrs. Tulliver mandò a chiamare le sorelle e al pian terreno fu un gran piagnucolare levar le mani al cielo. Gli zii e le zie videro che la rovina di Bessie e della sua famiglia era completa, come essi avevano sempre preveduto, e in tutta la parentela ci fu la sensazione generale che su Mr. Tulliver fosse caduto un castigo a cui sarebbe stato empio di reagire con troppa benevolenza. Ma Maggie poco sentì di tali discorsi, giacché non lasciava quasi mai il capezzale del babbo, di fronte al quale sedeva, tenendo nella sua la mano di lui. Mrs. Tulliver voleva che Tom fosse richiamato a casa e pareva pensasse al figlio più che al marito. Ma le zie e gli zii si opposero. Tom stava meglio in collegio, dal momento che Turnbull diceva che, a suo modo di vedere, un pericolo immediato non c'era, se non che, alla fine del secondo giorno, quando Maggie si fu abituata un po' di più alle crisi di insensibilità del babbo e all'attesa che queste passassero, il pensiero di Tom divenne urgente anche per lei. E quando alla sera la mamma si sedette piangendo e dicendo: «Il mio povero ragazzo, sarebbe soltanto giusto che gli tornasse a casa», Maggie rispose: «Lascia che io vada da lui, mamma, e gli parli. Ci andrò domattina, se il babbo non mi riconosce e non mi cerca. Sarebbe duro per Tom di tornare a casa senza essere stato avvertito di nulla». E la mattina seguente Maggie andò, come si è veduto. Seduti nella diligenza sulla strada di casa, fratello e sorella si parlavano in un triste, interrotto mormorio. Dicono che Mr. Wakem ha un'ipoteca o qualcosa del genere sulla terra, Tom, disse Maggie. Si suppone che sia stata la lettera che conteneva queste notizie a far malare il babbo. Credo che quel mascalzone stava lavorando da un pezzo per rovinare il babbo, disse Tom, saltando dalle più vaghe impressioni a una conclusione definitiva. Gliela farò scontare io quando sarò grande. Ricordati che non devi mai più parlare con Philip. Oh, Tom, disse Maggie in tono di triste rimprovero, ma in quel momento non aveva la forza di discutere su nulla e tantomeno di addolorare Tom contraddicendolo. 2. I Teraphim, ovvero le divinità domestiche di Mrs. Tulliver. Quando la diligenza lasciò davanti a casa Tom e Maggie, erano ormai 5 ore che questa era partita di casa e già pensava con una certa agitazione che forse il babbo aveva sentito la sua mancanza e chiesto invano della piccina. Non supponeva che potesse essere intervenuto alcun altro cambiamento. Fece di corsa il viale inghiaiato ed entrò in casa prima di Tom, ma nell'entrare fu colpita da un forte odore di tabacco. La porta della sala era socchiusa ed era di lì che veniva l'odore. Molto strano, poteva esserci qualche visitatore che fumava in un momento come quello? E la mamma era là? In tal caso bisognava annunciarle che Tom era arrivato. Dopo quel momento di sorpresa, Maggie era sul punto di aprire la porta, quando Tom sopraggiunse e insieme essi guardarono in sala. Un uomo grossolano e sporco, del cui viso Tom aveva un vago ricordo, stava seduto sulla poltrona del babbo e fumava, con una bottiglia e un bicchiere davanti a sé. La verità balenò in un attimo alla mente di Tom. Avere l'usciere in casa e andare all'asta erano frasi con cui aveva avuto consuetudine fin da bambino. Facevano parte del disonore e della calamità di fallire, di perdere tutto il proprio denaro, di essere rovinati, di cadere nelle condizioni del povero popolo che lavora. Gli parve semplicemente naturale che ciò accadesse dal momento che il babbo aveva perduto tutti i suoi averi e a questa particolare forma di disgrazia non attribuì alcun'altra cagione che la perdita della causa. Ma l'immediata presenza di questo disonore era per Tom un'esperienza molto più pungente che qualunque peggiore apprensione, tanto che in quel momento gli parve che allora soltanto fosse cominciata la sua vera pena. Era un attrito su un nervo irritato in paragone con una spontanea, ottusa nevralgia. Come va, signore? Disse l'uomo togliendosi la pipa di bocca con rustica e imbarazzata cortesia. Le facce sconcertate dei due ragazzi lo fecero rimanere un po' male, ma Tom gli volse le spalle bruscamente, senza fare parola. Quella vista gli riusciva troppo odiosa. Maggie non aveva afferrato, come Tom, i motivi della presenza di quell'estraneo. Seguì il fratello, mormorando: «Chi può essere Tom? Che cosa succede?» Poi, con un subitaneo, indefinito terrore che quell'estraneo avesse qualche rapporto con un peggioramento del babbo, si slanciò al piano di sopra, trattenendosi sulla porta della camera per togliersi il berretto ed entrare in punta di piedi. Là tutto era silenzio. Il babbo giaceva assente da tutte le cose d'intorno, con gli occhi chiusi come ella lo aveva lasciato. C'era là una serva, ma non la mamma. «Dov'è la mamma?» sussurrò. La serva non lo sapeva. Maggie si affrettò ad uscire e disse a Tom: «Il babbo riposa, calmo. Andiamo a cercare la mamma, non capisco dove possa essere.» Mrs. Tulliver non era al pian terreno e neppure nella camera da letto. Non rimaneva che una stanza sotto le soffitte, dove Maggie non l'avesse cercata. Ed era il ripostiglio dove la mamma teneva tutta la sua biancheria e tutte le preziose cose belle che venivano spiegate e messe fuori solo nelle grandi occasioni. Tom, che precedeva Maggie, mentre tornavano per il corridoio, aprì la porta di quella stanza e subito esclamò: «Mamma!» Mrs. Tulliver stava seduta là, con tutti i suoi tesori accumulati. Uno dei cofani della biancheria era aperto. La teiera d'argento era stata estratta da tutte le sue fodere di carta e la porcellana migliore era stata posata sopra un cofano di biancheria chiuso. Cucchiai e forchette e mestoli erano sparsi alla rinfusa sugli scaffali e la povera donna scuoteva la testa piangendo con un'amara piega della bocca mentre fissava la cifra Elizabeth Dodson sull'angolo di alcune tovaglie che deteneva sulle ginocchia. Le lasciò cadere e trasalì alla voce di Tom. «Oh, bambino mio, bambino mio!» disse buttandogli le braccia al collo. «Pensare che dovevo vivere fino a vedere questo giorno! Siamo rovinati, ogni cosa verrà messa all'asta. E dire che tuo padre mi ha sposata per ridurmi a questo! Non abbiamo più niente, saremo dei mendicanti! Dovremo andarcene all'ospizio!» Lo baciò, poi tornò a sedersi e prese un'altra tovaglia sui ginocchi, spiegandola un poco per guardare il disegno, mentre i ragazzi se ne rimanevano in un muto dolore, con la mente per ora completamente occupata dalle parole mendicanti e ospizio. «E pensare che l'ho filata io questa tela!» ella continuò, sollevando i vari capi e rigirandoli con una eccitazione che pareva tanto più strana e compassionevole in quella grassa donna bionda, di ordinario così passiva. Se qualcosa prima di allora l'aveva potuta turbare, era stato solo un turbamento in superficie. «E Job Hexy l'ha tessuta, e poi ha portato a casa la pezza sulle spalle. Mi ricordo che io stavo sulla porta e l'ho veduto venire, ed era prima che io avessi mai pensato di sposare vostro padre. Il disegno l'avevo scelto io stessa, e poi avevo orlato così bene le tovaglie e le aveva cifrate, che cifre uguali non s'erano mai viste. Dovranno tagliare la tela per portarle via, perché il punto è speciale. E tutte queste tovaglie saranno messe all'asta e andranno per casa di gente estranea, e forse le tagliuzzeranno coi coltelli e le rovineranno prima ancora che io sia morta. E tu non ne avrai neanche una, bambino mio», disse guardando Tom con gli occhi pieni di lacrime. «E io le destinavo a te. Volevo che quelle con questo disegno andassero tutte a te. Maggie avrebbe avuto quelle coi grandi scacchi. Non c'è niente che faccia così bella figura quando ci sono sopra i piatti». Tom era toccato al vivo, ma ebbe subito una reazione di collera. La sua faccia si infiammò mentre egli diceva: «Ma le zie le lasceranno andare all'asta, mamma! Ne sanno qualche cosa, non permetteranno mai che la tua biancheria se ne vada, né vero? Le hai mandate a chiamare?» Sì, ho mandato subito Luke. Appena sono giunti gli uscieri e zia Pallet è venuta, e Dio mio, Dio mio! Piange tanto e dice che tuo padre ha disonorato la mia famiglia e l'ha resa la favola di tutto il paese. E comprerà per sé la biancheria a puntini, perché di quel disegno lì non ne ha mai avuto tanta come voleva. E così non andrà a finire da estranei, ma di quella a scacchi ne ha già tanta che non sa più che farsene». A questo punto Mrs. Tulliver cominciò a rimettere le tovaglie nel cofano, piegandole e stirandole macchinalmente. «E anche lo zio Glegg è venuto e dice che ci sono delle cose che bisognerà comperare per noi da mettercele quando saremo morti. Ma deve parlarne con la zia, e verranno tutti per consigliarsi. Ma so già che nessuno di loro prenderà i miei servizi», soggiunse, volgendosi a guardare le tazze e le salsiere, «perché tutti mi hanno trovato a ridire quando li ho comperati, per via di quel piccolo filetto d'oro che c'è dipinto in mezzo ai fiori. Ma nessuno di loro ha un servizio più bello, nemmeno zia Pallet, e io me lo sono comperato col mio denaro, quello che avevo messo da parte fin dall'età di 15 anni, compresa la teiera d'argento. Vostro padre non ha mai speso nulla per queste cose, e pensare che mi ha sposata per ridurmi a questo punto!» Mrs. Tulliver scoppiò di nuovo a piangere e singhiozzò per alcuni minuti col fazzoletto sugli occhi, ma poi se lo tolse e disse in tono supplice, pur continuando a singhiozzare, come se le fosse stato chiesto di parlare avanti che potesse dominare la propria voce: «E io gliel'ho detto tante, tante volte, fa qualunque cosa, ma non la causa! E che cosa potevo fare di più? E me ne sono dovuta stare lì seduta mentre si dilapidava la mia fortuna, anche quello che doveva andare ai miei figli. Tu non avrai nemmeno un penny, bambino mio. La tua povera mamma non ne ha colpa». Tese un braccio verso Tom, guardandolo tristemente con i suoi occhi sconsolati, puerili occhi azzurri. Il povero ragazzo le si avvicinò e l'abbracciò, ed ella si strinse a lui. Per la prima volta Tom pensò a suo padre con un senso di rimprovero. La sua naturale inclinazione al biasimo che fino allora nei riguardi del padre era stata tenuta in freno dal preconcetto che questi avesse sempre ragione, per il semplice motivo che era il padre di Tom Tulliver, fu deviata a nuovo corso dai lamenti della mamma. E da allora lo sdegno di Tom contro Wakem cominciò a essere misto di un certo sdegno di altra specie. Forse il padre aveva contribuito a demolirli nel mondo e a far sì che la gente parlasse di loro con dispregio. Ma non l'avrebbero durata un pezzo a parlare con dispregio di Tom Tulliver. La naturale forza e fermezza della sua indole cominciava ad affermarsi sotto il doppio stimolo del risentimento contro gli zii e della sensazione che gli doveva comportarsi da uomo e prender cura della mamma. «Non ti crucciare, mamma», le disse teneramente. «Io sarò presto in grado di guadagnare. In un modo o nell'altro mi metterò a posto». «Che Dio ti benedica, bambino mio», disse Mrs. Tulliver un pochino più calma. Poi, guardandosi intorno con tristezza, «però non sarei così in angustia se potessimo almeno conservare le cose col mio nome». Maggie aveva assistito a questa scena con crescente irritazione. Questi impliciti rimproveri contro il babbo che giaceva là in una specie di morte vivente, annullavano tutta la sua pietà per quegli affanni provocati solo dalle tovaglie e dalla porcellana, e la collera che provava in difesa del babbo era aumentata da un certo risentimento egoistico per il silenzioso accordo di Tom con la madre nell'escludere lei dalla comune disgrazia. Divenuta quasi indifferente alla poca stima che d'ordinario la mamma faceva di lei, era tuttavia pungentemente sensibile a qualunque conferma, sia pur passiva, che di ciò potesse supporre in Tom. La povera Maggie non era affatto composta di devozione chimicamente pura, anzi esigeva molto per sé da coloro che molto amava. Finalmente proruppe in accenti agitati, quasi violenti: «Mamma, come puoi parlare così? Quasi che ti interessassero solo le cose che portano il tuo nome e niente quelle che portano il nome del babbo. Come puoi inquietarti d'altro che del caro babbo quando lui è là in un letto e non può più parlare con noi? Tom, dovresti dirglielo anche tu e non permettere che nessuno faccia delle accuse contro il babbo». Quasi soffocava da un misto di cordoglio e di ira, lasciò la stanza e andò a riprendere il suo solito posto accanto al letto del babbo. Il suo cuore si slanciava verso di lui con un impeto più forte che mai al pensiero che qualcuno potesse biasimarlo. Maggie odiava il biasimo. Per tutta la sua vita non aveva ricevuto che biasimi e non gliene era venuta che tristezza d'animo. Il babbo l'aveva sempre difesa e giustificata, e l'affettuosa rimembranza di quella tenerezza era in lei la forza che l'avrebbe resa capace di fare o di sopportare qualunque cosa per il suo caro. Tom fu un po' urtato da quell'alzata di Maggie, che aveva la pretesa di insegnare le convenienze a lui, non meno che alla mamma. Le imparasse lei, invece di prendere in simili congiunture quei modi gradassi o presuntuosi. Ma poi salì anche lui nella camera del babbo, e quel che vide lo colpì a tal segno da cancellare le più lievi impressioni dianzi provate. Avendo compreso quanto era commosso Maggie, gli si avvicinò e gli gettò le braccia al collo, mentre egli sedette accanto al letto, e i due ragazzi dimenticarono ogni altra cosa nel sentimento di avere un solo padre e una sola pena. 3. Il consiglio di famiglia. Era le 11 del mattino seguente quando giunsero le zie e gli zii per tener consiglio. Il fuoco era acceso nella sala grande e la povera Mrs. Tulliver, con un confuso sentimento che si trattasse di una grande occasione, come un funerale, tolse le fodere ai pomi dei campanelli e gli spilli alle tende, aggiustandone i panneggiamenti. E si guardava intorno, scuotendo tristemente il capo ai lucidi ripiani e alle gambe dei tavoli che nemmeno la sorella Pallet avrebbe potuto criticare come troppo poco brillanti. Mister Dean non veniva, era fuori per affari. Ma Mrs. Dean arrivò puntuale sul suo grazioso calessino nuovo, dal mantice rialzato, condotto da un servo in livrea, quel calessino che aveva illuminato di sì chiara luce alcuni tratti del carattere di Mrs. Dean per parecchie delle sue amiche di St. Oaks. Mr. Dean era progredito nel mondo tanto rapidamente quanto Mr. Tulliver era decaduto, e in casa di Mrs. Dean la biancheria e la maiolica dei Dodson cominciava a passare assolutamente in seconda linea, come semplice supplemento ai più belli articoli dello stesso genere che erano stati acquistati negli ultimi anni. Cambiamento che aveva occasionato un periodo di relativa freddezza nei sorellevoli rapporti con Mrs. Glegg, la quale trovava che Susan stava diventando come tutti gli altri e che ben poco ormai del vero spirito Dodson sarebbe sopravvissuto fuori che in lei, e c'era da sperarlo in quei nipoti che tenevano alto il nome dei Dodson nelle terre familiari, lontano, nei Woods. La gente che vive distante è naturalmente più scevra di colpe che quella che abbiamo immediatamente sotto gli occhi. Mrs. Dean fu la prima a giungere. E quando ella ebbe preso posto nel grande salone, Mrs. Tulliver scese da lei col suo viso di circostanza un pochino storto, quasi come se l'avesse pianto allora allora. Non era donna capace di versare tante lacrime, fuorché nei momenti in cui la prospettiva di perdere il proprio mobilio le si presentava insolitamente vivace, ma sentiva la sconvenienza di apparire perfettamente calma nelle attuali circostanze. «Oh, sorella, che mondo è mai questo?» esclamò nell'entrare. Quanti dolori, Dio mio! Mrs. Dean era una donna dalle labbra sottili, che nelle circostanze speciali faceva dei discorsi ben studiati e li ripeteva poi al marito, domandandogli se aveva parlato o no, con molta opportunità. Sì, sorella, disse con saggezza, questo è un mondo mutevole, e noi non sappiamo oggi quello che potrà capitarci domani. Ma è giusto tenersi preparati a tutto e se venga una prova ricordarsi che essa non ci tocca senza una causa. Sono molto addolorata per te, cara sorella, e se il dottore ordina della gelatina per Mr. Tulliver, spero me lo farai sapere, te la manderò volentieri. È più che giusto che mentre è malato riceva tutte le cure del caso. Grazie, Susan, disse Mrs. Tulliver molto languidamente, togliendo la sua mano grassa da quella magra della sorella. Ma per adesso non si è ancora parlato di gelatina. Poi, dopo un momento di pausa, soggiunse: Ho una dozzina di tazze da gelatina di sopra, ma ormai della gelatina non ne metterò mai più là dentro. La sua voce era parecchio agitata mentre ella pronunziava queste ultime parole, ma un rumore di ruote la distrasse dai suoi pensieri. Mister e Mrs. Glegg erano giunti, seguiti quasi subito da Mister e Mrs. Pallet. Mrs. Pallet entrò piangendo, che era un modo riassuntivo di esprimere per qualunque circostanza quali erano le sue vedute della vita in generale e quali, in succinto, le sue opinioni sul caso particolare. Mrs. Glegg s'era messa il posticcio più trasandato e certe vesti che mostravano di essere state recentemente riesumate da una specie di sepoltura piuttosto aggrinzita, un costume adottato con l'alto proposito morale di ispirare una perfetta umiltà a Bessie e ai suoi figli. Mrs. Glegg, non volete venire più vicino al fuoco? Le disse il marito che non voleva prendere il posto più comodo senza averlo offerto a lei. Vedete che mi sono seduta qui, Mr. Glegg, rispose quella donna superiore. Arrostitevi pure voi se ne avete voglia. Bene, disse Mr. Glegg sedendosi di buon umore. E come va il poveretto di sopra? Il dottor Turnbull l'ha trovato un po' meglio stamattina, disse Mrs. Tulliver. Capisce un po' di più e mi ha parlato, ma non ha ancora riconosciuto Tom. Guarda quel povero ragazzo come fosse un estraneo. Per quanto una volta abbia già detto qualche cosa di Tom e del puledro. Il dottore dice che la sua memoria è tornata molto indietro e che non riconosce Tom perché lo pensa come quando era bambino. Mio Dio, mio Dio! Io credo che sia l'acqua che gli è andata al cervello, disse zia Pallet, volgendosi dopo d'essere aggiustata melanconicamente il cappello davanti alla specchiera. È molto se potrà ancora tirarsi su, e se ci arriverà probabilmente sarà rimbambito, come era Mr. Carr, pover'uomo. Lo imboccavano col cucchiaio, come un bambino di 3 anni. Aveva completamente perduto l'uso delle braccia e delle gambe, ma possedeva una seggiola di Bath e qualcuno lo tirava. Cose che voi non potrete avere, ne ho ben paura, Bessie. Sorella Pallet, disse Mrs. Glegg severamente, se capisco bene, noi ci siamo riuniti stamattina per consultarci e deliberare sul da farsi in questa disgrazia che è caduta sulla famiglia e non per parlare di gente con cui non abbiamo nulla in comune. Mr. Carr non era del nostro sangue e non si è mai imparentato con noi, per quanto io sappia. Sorella Glegg, disse Mrs. Pallet in tono di difesa, rimettendosi i guanti e sfregandosi le dita con agitazione. Se hai qualche cosa di poco riguardoso da dire su Mr. Carty, prego di non venirlo a dire a me. So io chi era, soggiunse con un sorriso. La sua respirazione era così oppressa che la si sentiva a 2 camere di distanza. Sophie, disse Mrs. Glegg con sdegno e disgusto, tu parli delle malattie della gente che è una vera indecenza. Ma ti ripeto quel che ti ho già detto. Non sono uscita di casa per parlare dei conoscenti, se avevano il fiato corto o lungo. Se non ci siamo riuniti per sentire l'una dall'altra come si possa scongiurare che una sorella e i suoi figli vivano a carico della parrocchia, io me ne vado. Nessuna di noi può agire senza le altre, credo, e non aspettatevi che sia io a fare tutto. Bene, Jane, disse Mrs. Pallet, non mi risulta che tu ti sia poi fatta così avanti per prestarti. Per quanto mi risulta, questa è la prima volta che vieni qui, da quando si è saputo che c'era l'usciere in casa. Invece io ero qui anche ieri e ho guardato tutta la biancheria e gli oggetti di Bessie, e le ho detto che avrei comperato le tovaglie a puntini. Meglio di così non potevo parlare. Quanto alla teiera, che lei non vuol vedere uscire dalla famiglia, è troppo chiaro che io non saprei che farmene di 2 teiere d'argento, anche se questa non avesse il becco dritto. Ma invece il damasco a puntini io l'ho sempre trovato bellissimo.